Europa 24. Eccoci qua, ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, come avete sentito qualche momento fa, il Consiglio UE è l'ultimo di questa stagione, di questo 2016, l'ultimo della presidenza slovacca. Sentiamo allora subito il punto su questa giornata secca, insolito, di solito i vertici europei durano almeno un paio di giorni e sarà tutto concentrato fino alla mezzanotte di oggi. Sentiamo al servizio di Alessandra Schepisi. Migranti, difesa, Ucraina, economia e informalmente anche la Brexit e l'elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo. Tanti i dossier sul tavolo di questo vertice che rappresenta il debutto da premier del nuovo ministro italiano Paolo Gentiloni. Prima volta che ho l'onore di rappresentare l'Italia al Consiglio europeo e oggi la questione principale che discuteremo è la questione dell'immigrazione. Da questo punto di vista l'Italia è molto esigente perché non siamo ancora soddisfatti della discussione sul regolamento di Dublino. Abbiamo lanciato un programma per fronteggiare insieme i fenomeni migratori dall'Africa e oggi sarà fatto un passo in avanti adesso perché insieme a Francia, a Germania, con il Niger firmeremo un primo accordo che vale un centinaio di milioni e che cerca di mettere più forza nella gestione dei flussi migratori dal Niger verso la Libia. Si parte con l'immigrazione dunque per ribadire che nonostante i malumori l'accordo con la Turchia funziona e c'è la volontà di mantenerlo. Poi il punto sui cosiddetti compact, e cioè gli accordi che l'Europa sta facendo con alcuni paesi, investimenti in cambio di aiuti a frenare le partenze, mentre la riforma del regolamento di Dublino potrebbe anche slittare al prossimo semestre quando la presidenza di turno passerà a Malta, paese che sposa la linea dell'Italia, quella cioè che vorrebbe un impegno formale di tutti i paesi a ricollocare i migranti e non una solidarietà flessibile sulla quale puntano invece i paesi dell'est. E ancora sul tavolo il rinnovo delle sanzioni alla Russia per la vicenda ucraina, mentre dovrebbe arrivare una bozza di risoluzione di condanna per ciò che sta accadendo in Siria e anche un disco verde al pacchetto sulla difesa comune. A chiudere i lavori la cena 27 sulla Brexit. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Su ciò che sta accadendo in Siria ha commentato Federica Mogherini, dunque la responsabile della politica estera e sicurezza europea. Dice: la situazione, in particolare ad Aleppo, è completamente inaccettabile. Per questo la nostra priorità come Unione Europea è la protezione dei civili. Ha però aggiunto che sono escluse ulteriori sanzioni alla Russia in questa materia. Vi ricordo che in questo incontro, in questi giorni, in realtà dovranno essere decise la continuità, dunque un altro semestre di sanzioni alla Russia, quelle già definite ormai da tempo e legate alla annessione della Crimea. Infine, servizi ferroviari più concorrenziali, tariffe più basse per i cittadini. Questo è l'obiettivo del quarto pacchetto ferroviario approvato ieri dal Parlamento europeo. Sentiamo il vicepresidente del Parlamento europeo e relatore del provvedimento, David Sassoli. Apriremo il mercato ferroviario europeo dal 2019, cioè da fra poco tempo, e naturalmente l'apertura produrrà concorrenza, possibilità per le nostre compagnie di lavorare nei mercati nazionali europei e nello stesso tempo, avendo più concorrenza, potremo avere anche tariffe più basse. Reti e manutenzione però restano pubbliche. Sì, noi apriamo il mercato, ma naturalmente reti e manutenzione restano pubbliche, sono i servizi ad andare a gara. Bene, è tutto per questa edizione di Europa 24. Adesso, come di consueto, vi lascio a tutti convocati. Noi ci risentiamo nel corso della giornata. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.